Vendo tutto di Matteo Caccia. Il teatro per intrattenersi, una borsa a tracolla per avere sempre il necessario, una televisione perché senza non si può stare, un paio di sci per scivolare giù e un weekend per non tornare più. E questo è solo una parte di quello che vendo questa settimana, perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta, oggi vendo la mia televisione. Sono le 16:07, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, buongiorno anche a Paolino Corleoni che è di là dal vetro insieme a Tiziano Bonini. Allora, oggi vendo un pezzo direi fondamentale dell'arredamento, ma direi fondamentale anche della vita di tutti noi. Oggi vendo la mia televisione. Visto che ho messo la foto come al solito su Facebook, qualcuno mi ha scritto: per quale motivo non è sul parquet incrociato che ci piace tanto? Per un motivo molto semplice, che visto che mi sono bloccato la schiena la prima volta che l'ho trasportata ed è là da praticamente 5 anni, l'ho fotografata lì dove era per evitare di arrivare piegato in due qui in studio. Quindi la potete vedere se volete sul sito radio24.it oppure sulla pagina Facebook che è Matteo Caccia Vendo Tutto. Oh là, oggi si parla di TV. Allora, facciamo subito un accordo. Sparare sulla TV è troppo facile. Giusto, prima ho inserito su Google perché la televisione è utile e sono uscite a un'infinità: la televisione fa schifo, la televisione è dannosa, la televisione fa male, non guardate la TV, eccetera, eccetera, eccetera. Però non si capisce com'è. Tutti ce l'hanno sta televisione e tutti la guardano la televisione, anche solo perché magari ti tiene compagnia, anche perché solo magari ti fa luce mentre ti stai addormentando e non vuoi tenere la luce spenta. Per Alessandro Genovese, ad esempio, guardare Gerry Scotti la sera è un po' come mangiare le lasagne, diceva, lo trova rassicurante. Quindi io vorrei che voi mi chiamaste 800240024 e al di là dei soliti stereotipi sulla televisione che fa schifo, mi dite per quale motivo per voi la televisione è utile. Nel senso che ad esempio Tiziano Bonini non ce l'ha la televisione, e non solo perché è un fine intellettuale, perché credo non abbia l'antacco per l'antenna in casa, banalmente. Poi dice che torna Foligno dai suoi genitori e rimane letteralmente ipnotizzato per ore davanti alla televisione. Quindi siamo da capo. Vorrei quindi che voi mi chiamaste 800240024 e mi diciate: guarda, per me la TV è utile anche solo perché quando stiro mi serve avere una cosa accesa, oppure perché ci piazzo davanti i bambini, che non è mai bello dirlo, non è mai bello dirlo, però i bambini un'oretta davanti alla televisione, tutto sommato, un pochettino ipnotizzati ci possono rimanere. 800240024 oppure 349-238-6666. Ma guarda, oggi proprio crepi l'avarizia. Vendo tutto, @radio24.it pure se avete voglia, o altrimenti gli sms 349-238-6666. Ora torniamo invece alla mia di televisione, che guardate, vi dico, visto che l'ho fatto la foto ieri e l'ho già impacchettata pronta per la spedizione, a occhio perché pesa un botto, quindi vi conviene venirvela a prendere se ve la giudicate. Vi dico, ieri sera, già senza la televisione che era praticamente già nella scatola, la prima cosa che ho fatto è vedere se su internet riuscivo a vedere la TV. E ho detto tutto. 800240024. Veniamo alla storia della mia TV. Volete vederla? Radio24.it. Volete sentirla? Eccola qua. Il televisore. Televisore a schermo piatto 27 pollici, marca Daewoo, modello 72FT EMS, frequenza 100 Hz, dotato di Virtual Dolby Surround, color argento, un ingresso cavo antenna, doppio ingresso SCART. Dimensioni: altezza 61 cm, larghezza 76 cm, profondità 50 cm. Perfetto per farsi una cultura televisiva o per riempire un portatelevisore. Valore commerciale 100 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La famiglia di Giulia le impediva di guardare la TV. Sto parlando di quando era bambina, ovviamente. Cioè, non è che la legassero con una corda impedendole di raggiungere il salotto. Cioè, è proprio che la televisione non c'era. In nessuna stanza della casa. Ora, sarete d'accordo con me? Queste sono cose che ti segnano. E lei, questo segno era particolarmente forte. Che poi, voglio dire, pure a casa mia, nostra madre ci permetteva di vedere solo alcune cose. Tipo Bim Bum Bam, La casa nella prateria. Anche se però io in realtà ricordo dei lunedì mattina frustranti, perché a scuola tutti se la ridevano parlando del drive-in, dicendo di Asfi Duncan, di Vito Catozzo, mentre io non avevo la minima idea di chi fossero, perché il drive-in, no, quello proprio non si poteva vedere in casa mia. Però, tra sapere chi era Paolo Bonolis 20 anni fa, prima che diventasse il conduttore Zanichelli della lingua italiana, e non saperlo, c'è un'enorme differenza. C'è proprio una differenza di mondi, di riferimenti culturali, di bagaglio di immagini. Che cavolo dici, Will? Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Kiss me, kiss me, Licia. Di tutto questo lei non sapeva nulla. È chiaro quindi che tra me e lei ci fosse una frattura, fatta soprattutto di sigle non condivise, di personaggi che lei non conosceva, di storie che per me erano importanti negli anni in cui lei già leggeva Tolstoi o Calvino. Ora, fino a che eravamo io e lei, il problema non sussisteva, cioè si superava, no? Cambiavamo discorso, parlavamo delle vacanze, della cena da preparare. Il problema erano le uscite con gli amici, i suoi, ovviamente. Ora, non che tutti i suoi amici avessero subito la privazione della TV da piccoli, però all'apparenza facevano finta che fosse così. Che poi, a pensarci bene, tutti abbiamo qualche amico particolarmente ferrato su argomenti di spessore, no? Tipo la politica, la letteratura, la matematica. I suoi amici però parevano preparati su tutto. Quindi alla fine gli argomenti spesso erano più da salotto di Corrado Augias che non da pizzeria. Una sera in cui erano tutti particolarmente in forma, si cominciò a parlare di antieroi. Antieroi. Uno di loro, un tizio con la barba, gli occhiali con la montatura nera, spiegava che gli antieroi sono quei personaggi che fanno tutto un percorso di conoscenza non tradizionale, cioè non come Achille o come Ettore, che sembrano proprio il contrario degli eroi. Personaggi che fanno scelte sbagliate, che sembrano quasi involutive, però che alla fine raggiungono una loro maturità, che è più umana, è più alla portata di tutti, e quindi ce li rende più vicini. Tutti loro erano d'accordo sul fatto che l'antieroe più rappresentativo di questa generazione fosse Holden Caulfield. Quella sera, non so come mai, forse per via dei due mojiti, mi sentivo più a mio agio del solito, e quindi ero bello deciso a dare il mio contributo. Quindi cominciai a dire che secondo me l'antieroe per eccellenza invece era un uomo che aveva ricevuto un dono enorme, un dono che non sapeva usare, un uomo che aveva dei poteri che non maneggiava, eppure si metteva comunque al servizio del bene, dell'umanità, rischiando sulla propria pelle. Io me lo ricordavo bene, perché lo vedevo tutte le mattine, quando ero malato e stavo a casa da scuola. Lo davano su Italia 1 verso le 10. Era biondo, indossava una tuta rossa con un mantello nero e volava tutto storto. Si chiamava Ralph. Lui era il vero antieroe della nostra generazione. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody. Inutile dire che Giulia non aveva idea di chi fosse Ralph Supermaxieroe. Però la cosa che mi stupì fu che invece, al contrario di lei, i suoi amici Tolstoi, appena la nominai, iniziarono a canticchiarne la sigla. Ecco, quella sera decisi che avrei regalato a Giulia una nuova televisione. Il giorno dopo la portai a comprare una TV, non curante del fatto che fosse sabato e che il sabato pomeriggio tutte le persone hanno un elettrodomestico da comprare e quindi si riversano nei supermercati di elettronica. Vi dico, ci impiegai 5 minuti a sceglierla e 50 per pagarla. Il bello però arrivò al momento della consegna. Il ragazzo del negozio mi disse che se volevo poteva portarmela fino all'auto, però a me pareva di fare la figura dello smidollato e quindi con un sorriso sprezzante gli dissi: guarda, lascia fare ragazzo, faccio io. Il tutto accadeva 4 anni fa, quando i televisori ultrasottili erano appena apparsi sul mercato, costavano ancora uno sproposito. Quindi alla fine avevo optato per una televisione di 27 pollici a schermo piatto, ma con il classico tubo catodico, no? Il che voleva dire che avrei dovuto trasportare l'equivalente di un cucciolo di bisonte, che non si sarebbe dimenato fra le mie braccia, il cui peso però sarebbe gravato completamente sulla mia colonna vertebrale. Non so come accadde, ma nel sollevamento e nel trasporto tutto andò bene. Fu al momento di appoggiarlo nel bagagliaio che qualcosa si spezzò. non nel televisore però, nella mia schiena. Non mi misi a urlare per una questione di gusto personale, ma la schiena rigida e le gambe piegate avevo e così bloccato rimasi. Non potevo guidare perché non ero in grado di assumere una posizione utile alla guida, quindi mi sdraiai come un bacarozzo rovesciato sul sedile posteriore. Giulia aveva tirato fuori il fazzoletto dal finestrino e strombazzava per il traffico come avesse avuto un infarto. Lei voleva a tutti i costi portarmi al pronto soccorso, ma io no. Che non saprei dire perché, però a meno che non mi abbia colpito un fulmine, quando mi dicono andiamo al pronto soccorso, la prima cosa che risponde è sempre ma no, non serve. Però in fondo non avevo tutti i torti, visto che al primo pronto soccorso non ci fecero nemmeno entrare. Il tizio alla sbarra disse qui solo codice rosso, gli dia un Voltaren e lo metta a letto. Di nuovo in macchina all'improvviso Giulia inchiodò in mezzo alla strada, fece un'inversione a U, una roba d'arresto immediato, e si fermò davanti ad una vetrina rosa con la scritta centro benessere massaggi fiori di loto. Io, piegato come una graziella, riuscii a scendere dalla macchina in non meno di 10 minuti. E né io né lei ci accorgiamo delle scritte sulla porta del centro massaggi. Scritte che all'interno promettevano ore di eccitante benessere grazie alle splendide ragazze cinesi. Lo capimmo però quando ci proposero un body massage completo in una vasca king size con happy ending finale. Quando risalimmo in macchina la mia situazione era peggiorata, ma pure l'umore di Giulia, che a quel punto mi portò a casa e seguendo il consiglio dell'uomo della sbarra, mi imbottì di Voltaren. Quando mi risvegliai dall'anestesia degli antidolorifici, credo una settimana dopo più o meno, Giulia era sul divano che guardava una puntata della prova del cuoco con Antonella Clerici e mi disse una frase che mi fece capire la sua conversione totale. Vedi Matteo, il problema non è la televisione, è il modo in cui la si usa. E brava Giulia, benvenuta nel club. Eppure, nonostante tutto, nonostante Ralph Super Maxi Eroe, il colpo della strega e tutto il resto, questo televisore è in vendita. Il suo valore sul mercato sono 100 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Se volete raccontarmi perché la TV è utile per voi, 800240024. La TV ce l'abbiamo un po' tutti a casa, perché alla fine ti fa sentire meno sola. 800240024, andiamo subito da Barbara da Vicenza. Pronto? Ciao. Ciao Barbara, come va? Allora, bene, grazie. Dimmi. Ascolta, io guardo la televisione la sera, anche raramente. Sì. Però la guardo soprattutto quando devo stirare, come dicevi tu prima. Cioè, perché ma... poi di pomeriggio ho la mia bambina di 7 mesi, per cui sto con lei. E quindi non le fai vedere la televisione a 7 mesi? No, non le faccio vedere la televisione. Però guarda, ti consiglio, io ho notato, adesso rimanga tra me e te Barbara, che su alcuni canali satellitari, non so se c'hai il satellite, ma la notte tardi mandano dei programmi per bambini che sono quasi ipnotici, c'è una musichettina sotto, è una specie... È una specie di disegno che gira continuamente in circolo, è una roba che, guarda, anche un adulto se la guarda rimane ipnotizzato e si addormenta. Secondo me un'ideuzza, se la bambina non riesce a prendere sonno, non è male. Tra l'altro è lì vicino a te, mi pare di capire. Sì. Come si chiama? Si chiama Gaia Augusta. No, Gaia o Augusta? Tutto ah, bene. Gaia Augusta, perdonami. Senti, quindi va bene per stirare la TV, però cosa guardi mentre... Io guardo i film generalmente, i bei filmoni, quindi in costume. Ok, quindi puoi dirci ufficialmente che almeno mentre stiri, Barbara, la TV è utile. Grazie mille. Ciao Barbara, buona giornata. Andiamo da Lorenzo a Milano, pronto? 800240024. Ciao Lorenzo. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio. Guarda, diciamo che l'utilizzo che ne faccio è simile a quella ragazza di prima piuttosto che a quella bambina, nel senso che io purtroppo lavoro, dico purtroppo perché al momento non è dei più felici nel commerciale. Sì. E in questo periodo. Perché non è dei più felici? Perché mezza 3 di notte mi sveglio. Ma quindi per ansia, per stress? Per ansia, per stress, sì. Tieni presente che avendo praticamente 59 anni, lo faccio dal 75, sono praticamente ormai scarico. Ma cosa vendi, scusami Lorenzo, cosa fai esattamente? Agente di commercio per una multinazionale. Ok, ma il prodotto si può dire, cos'è, un medicinale? No, meglio di no, okay. Quasi in monopolio. Ah ok, allora niente, andiamo oltre. Insomma, la situazione non è molto rosea, e quindi? No, vabbè, si fa una fatica paurosa, voglio dire, quindi non si gioca a biliardo. Tutti i giorni è una, una battaglia. In più tu puoi immaginare che quando le cose non sono facili si incartano ancora di più. Ovvio. Quindi fatto insomma che, e io quando mi sveglio, quindi 3:30, ho trovato un programma stupendo, che è quello di Rai 3 News. Cioè alle 3:30, mi sembra già una notizia, alle 3:30 c'è un programma, che cosa fa su Rai 3 News? Rai 3 ha una, si collega tramite sul digitale, sul terrestre, il satellitare di Rai 3 si collega sul terrestre. Sì. E praticamente è un sono Rai 3 News, per cui ci sono argomenti vari. Ma dimmene uno almeno, Lorenzo, una roba. È vario, nel senso che si parla di quello che può essere il problema del momento, tipo attualità, piuttosto che problemi di costume. Ma lo segui, scusami Lorenzo, perché ti interessa o perché ti fa addormentare? Perché mi fa addormentare. Ah, ok, perfetto. Mi pacifica. Ti metti in pace con te stesso. Sì, siccome è un parlato che è fatto in modo, direi, abbastanza tranquillo, abbastanza soft, io mi metto lì a testa in giù e ti abbiocchi. Mi riabbiocco fino alle 6:30, 7. Bravo, Lorenzo, in bocca al lupo per tutto e grazie, buonanotte mille. Se ce la fai. Ciao, grazie. Fantastico, ciao. Andiamo da Raffaele, in provincia di Roma. Pronto? Sì, salve, buona trasmissione a tutti quanti. Grazie, grazie mille. Cioè, buona trasmissione a chi ascolta e a me o proprio a tutti, Raffaele. Sì, no, volevo dire che secondo me, almeno per quello che mi riguarda, la televisione è fondamentale. Perché? Soprattutto perché nella mia adolescenza sono cresciuto con i team, con Ken il Guerriero, il cartone animato, quindi è stato fonte di intrattenimento per molte ore, insomma, in questa crescita. E quanti anni hai, Raffaele, scusami? 40 adesso. Hai la voce di un ragazzino, però. Cosa sì, fai nella vita? Dunque, faccio il trasportatore di latte. Quindi ti alzi a degli orari assurdi? Sì, 3:30, 12:30, 13:30. E quindi a che ora la guardi la TV, scusami Raffaele? Adesso che sono ritornato adesso a casa, praticamente ho messo su un po' di pasta sulla stufa a legna e ho spento un attimo la televisione perché se praticamente mi sono collegato adesso. Ma scusami, ma tu quindi ascolti la radio e la TV insieme? No, allora, venendo in macchina vi ascolto e ti ascolto soprattutto, okay, perché sono in linea con l'orario. E quando arrivo a casa, attualmente su Italia 1 stanno dando Smallville, non so se lo conosci. Come è un serial televisivo, sì, certo. E devo dire che mi rilassa, chiaramente non è un'informazione, è un momento... Chiaro. Mi sembra che sia in linea con molti messaggi che arrivano, per cui il rilassamento è la prima cosa. Grazie mille Raffaele, ciao, buona giornata. Grazie. Ciao, 800 24 00 24, intanto al 349-238-6666 mi scrive: io senza il mio televisore non potrei giocare con la PlayStation, la uso solo per quello e per i Simpson. Federico, 32 anni, andiamo in provincia di Vicenza da Leonardo invece. Pronto? Sì, ciao. Ciao Leonardo, buongiorno. Grazie. Senti, io ho chiamato fondamentalmente perché faccio i complimenti con te per la puntata di oggi, che era strepitosa, veramente super Ralph. Super Ralph. Guarda, se ce l'abbiamo te lo rimetto un secondo, Ralph Super Maxi Eroe, giusto per farti contento. Aspetta un secondo che ritroviamo. Vai Paolino. Effettivamente è una sorta di baratro che si apre all'interno delle nostre memorie. Leonardo, dimmi tu quando la usi la televisione. La uso fondamentalmente per cucinare. Quando posso mi isolo dalla moglie, dalla figlia e mi chiudo in cucina, accendo la TV, magari se fanno un bel video oppure lo noleggio, e mentre cucino mi guardo a pezzi il film, insomma. Bravissimo, grazie mille Leonardo, buona giornata. Grazie. Ciao, insomma, mi sembra evidente che si fa soprattutto altro anche guardando la televisione, non solo funziona per la radio. L'ultima telefonata, andiamo con Ruben da Padova. Pronto? Pronto, salve. Ciao Ruben, buongiorno. Buongiorno. Tu mi pare che invece la TV proprio non ce l'abbia più. No, ma io sono riuscito a sopravvivere circa 4 anni, e tuttora sopravvivo senza TV, assolutamente. E succede anche mai quello che ho detto prima, quando vado da qualche parte, in casa di amici, eccetera, che c'è la TV, effettivamente mi fa quell'effetto lì, è come un effetto ipnotico, tu la guardi, rimetti e tira. Però devo dire che senza le cattive notizie dei telegiornali, senza quelle cose lì... Si sta meglio. È un relax. Ruben, ti ringrazio molto. Ciao e buona giornata. L'ultimo messaggio che è arrivato mi dice: Vito Catozzo, un mito. Cosa mi fate ricordare? Il drive-in. Pippo, Pippo, Pippo, Pippo. Quindi alla fine siamo sempre lì. Grazie a tutti, grazie a Laura Faggina, Tiziano Bonini, al Genovesi e a Paolino Corleoni. Oggi mi sono effettivamente liberato di una delle cose fisicamente più pesanti, della mia televisione. Domani invece cambio completamente tiro, perché domani vendo il mio paio di sci. Questa sera fate una cosa, mettetevi pure davanti alla televisione, ma quando lo fate pensate che alla fine tutto quello che si vede in televisione è solo televisione. Love, love, love, wherever...